Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascar, non ti essere lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Oh là là, ragazzi, buonasera. La Grosciani è un'icona frusciona ora, lo sa? Ragazzi, siamo a ridicolo, siamo a ridicolo. E mentre Calderoli, da paria, da mostro, da persona da cacciare dal Senato e da tutte le istituzioni, dopo aver dato dell'orango alla signora Chieng, diventa improvvisamente padre della patria, ricevuto con tutti gli onori dai signori del Partito Democratico, l'europarlamentare Borghezio viene cacciato da una festa del Partito Democratico, viene invitato a una festa del Partito Democratico e viene cacciato per indegnità. Allora domanda, chi è più indegno, Calderoli o Borghezio, amici miei? Perché Calderoli, che avete dipinto, amici della sinistra, come una sorta di uomo terribile, quello che dà le fiamme alle leggi, un uomo volgare, da disprezzare, che volete addirittura portare in tribunale, adesso lo fate diventare lì il simbolo della riforma del Senato, quella che ci volete far credere essere la riforma che risolverà tutti i mali italiani, perché va bene quest'uomo, e Borghezio invece no, semplicemente perché va a trovare, caro Parenzo, gli amici di Casa Pound, i signori di Casa Pound a Roma. Beh. La pace è terminata, comincia la resistenza attiva, basta immigrazione, viva Roma che resiste, viva Roma eterna che vuole ritornare a essere pulita e civile come lo è da 2000 anni. Allora, quest'uomo non va bene, poi supereremo anche questo, magari Borghezio contribuirà a qualcosa e verrà invitato con tutti gli onori. Invece quest'altro signore che si chiama Calderoli, quello che ha dato dell'orango, quello che bruciava le leggi, quello della maglietta, quello della porcata. Ma è chiaro, ma perché ti devi scandalizzare? Ma è evidente perché uno sì e uno no, perché uno è fondamentale per portare a casa questa ma perché porcata. Devi interrompere, perché devi, con questa banalità che dici, devi interrompere un'emozione? Perché con questa banalità, cancellatemi questa voce, mettetelo giù, per dire questa banalità, interrompe un'emozione, interrompe un racconto quest'uomo. Chiudete il microfono, chiudete il microfono, Calderoli, voglio sentire Calderoli. E di coraggio ce n'è voluto veramente tanto a nominare me come relatore di maggioranza, perché era un po' come dare una pistola carica in mano a un serial killer e sperare che non facesse una strage. David? Sì? Ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Soprattutto perché interrompi un'emozione, interrompi l'emozione di un racconto. Se devi dire queste banalità, racconto? È chiaro che è geniale, è chiaro che Calderoli diventa fondamentale, ma non ci vuole Parenzo, David Parenzo, per dire questa enorme banalità, questa straordinaria banalità. Lo sappiamo che è essenziale. Che pensi, che siano imbecilli quelli che ci stanno ascoltando? Sanno benissimo che Calderoli penso. È fondamentale, perché gli altri non sanno fare niente, lui no, si è impratichito della riforma costituzionale. Ancora un Calderoli, dai, il mostro diventato statista, la sinistra, la grande coerenza del Partito Democratico e della sinistra. Nessuno può dire che io non abbia dato una mano alla riforma della Costituzione. solo che oltre che la mano ci ho messo anche due vertebre, quello mi è spiaciuto di più. Poi uno può dire ovviamente meglio così che il Senato vecchio, eh? Meglio il Senato riformato, meglio il Senato indiretto con i consiglieri regionali, eccetera, eccetera, piuttosto che il Senato che decide sulla fiducia del governo, eccetera. A me mi fa schifo, mi fa orrore questa riforma. Io volevo tirare giù. Volevo tirare giù la Clair. C'è una. Ma non per le. Non perché dicono che. C'è il pericolo della dittatura, eh. Non me ne frega assolutamente nulla di questa roba qua. Non credo che ci sia pericolo di dittatura. Il governo, meno male che c'è un governo forte. Se ci sarà un governo forte, ma perché ci sono dei tempi dilatati? Il Senato che dura non so quanti anni, un pastrocchio sui poteri, sarà una cosa ridicola. Ma voglio sentire la signora Taverna dei 5 Stelle. La signora Taverna, sempre con questo linguaggio romanesco molto accentuato. Inizio ad avere un fastidio fisico per voi, rivolgendosi a quelli del PD, immagino. Potete farci scegliere almeno chi deve decidere della nostra vita politica? Almeno questo. Volete mantenere il Senato? Ma cavolo, fatecelo eleggere. No, ve lo dovete eleggere da soli. Io non vi sopporto più, ve giuro, un anno e mezzo comincio veramente ad avere un fastidio fisico di voi. No, guarda. Siete fastidiosi perché non potete essere in buona fede, perché vi conosco e so che siete preparati. Ancora Taverna, meglio la monarchia. Beh, adesso non esageriamo, la Taverna, meglio la monarchia. Ma non volevate prendere il 51% per governare da soli pure voi? Dunque, che cos'era quella? Non era pure quella una semidittatura? Renzi vuole pigliare il 51% e governare, come volete fare voi? Avete detto che spaventiamo i cittadini con le parole. Ebbene, voi li state rovinando con i fatti. Un senato di nominati, né più né meno di quanto avveniva al tempo della monarchia. Anzi, peggio, perché almeno all'epoca li sceglieva il re per meriti verso la patria. Oggi ve li scegliete da soli per meriti verso voi stessi. La terra che scorre nel sangue delle mie vene, sangue spesso però raggrumito dalla barbarie dei poteri forti, dal malcostume mafioso, dal clientelismo, dal dispotismo e dal bigottismo. Ragazzi, qui siamo al massimo, eh? Un Vendola che dice. Nel weekend ho letto qualcosa, Parenzo, non so se tu hai letto l'ipnosi, no? Renzi che ipnotizza, ma che c'entra l'ipnosi? È che quello comanda, decide, offre anche posti, fa delle politiche che possono essere definite di sinistra e alcuni di voi passano con lui. Non è che l'ipnosi, l'ipnosi fa parte della politica, un leader carismatico, che vuoi fare? Anche tu sei stato un leader carismatico, sei stato, dico al passato, ma comunque al di là di questo, caro David, ti faccio sentire un Vendola incomprensibile come al solito. Credo in uno dei suoi massimi, una delle sue massime performance. Sentiamo. O performance, come mi dicono di dire, ma me ne fotto. Senti. Il tema della disarticolazione della base produttiva della società italiana sia il tema vero che noi dobbiamo metabolizzare analiticamente per poter capire come il nostro discorso non diventa semplicemente una sloganistica apocalittica, sì, o sociologia pura. Beh, certo. Ma come diventa anche qui conoscenza, interlocuzione, agenda e lotta politica. Allora ve lo rileggo bene se non avete capito. Il tema Aspetta, il tema della disarticolazione della base produttiva della società italiana. Senti, il tema della disarticolazione. Poi uno dice che non vota più Sella, amico mio! Ma come si fa a votare uno che parla così? Dai! Il tema della disarticolazione della base produttiva della società italiana sia il tema vero che noi dobbiamo metabolizzare analiticamente per poter capire come il nostro discorso non diventa semplicemente una sloganistica apocalittica o sociologica pura, ma come diventa anche qui conoscenza, interlocuzione, agenda e lotta politica. Amici miei, ma che vedevo di viva la Taverna, oh. Davanti a questo viva la Taverna, mi verrebbe da dire viva la taverna, mi verrebbe da dire. Dai, l'hai detto. Allora, signor Vendola, poi dice anche che mi fa un po' specie essere liberato nei miei diritti da Dudu, parla della vicenda Pascale omosessualità. Dudu e la Pascale hanno modernizzato la destra e siamo sul punto di una svolta libertaria del nostro paese. Beh, francamente, compagni e compagni, io, insomma, che io debba essere liberato nei miei diritti da Dudu mi fa un po' specie. Poi dice anche che ha modernizzato la destra, eccetera, non è che parla male. Dice che non ho bisogno della Pascale di Dudu per essere, diciamo, modernizzato. E invece sì, perché la sinistra al governo non ha fatto nulla per questo. Io direi anche un cazzo, non nulla. Beh, io quello volevo tenermelo per le 20. Per dopo, 15, dici, per dopo. Volevo tenermelo per dopo, per quando si parlerà della questione palestinese. Senti ancora Vendola, sì, vabbè, la questione palestinese, sì, ne parleremo. Dopo arriveremo. Avanza l'esercito, sta avanzando per liberare i territori dai terroristi. Avete sentito la sobria opinione di Parenzo sulla guerra? No, sobria e moderata, perché ancora fa il tifo per l'invasione dell'esercito israeliano a Gaza. L'invasione e l'occupazione. No, un momento, la chiamo la liberazione. È leggermente filo Tel Aviv, il signor Parenzo. Leggermente. È un pericoloso moderato Netanyahu, poi ti spiego perché è pericolosamente. Allora, ancora Vendola, la società renziana, senti. Nella società renziana agiscono e parlano le lobby, le corporations, i pubblicitari. Il lavoro è un soggetto muto. Vabbè, ma ogni tanto, per carità, sarà anche intelligente, però anche qui siamo alla banalità più totale. Mentre credo che agiscono le lobby, dov'è che non agiscono? Cioè, in quale società non agiscono? In quale società non agiscono le lobby? E poi le lobby dei lavoratori, in particolare quelle dei lavoratori dipendenti, in realtà, cioè, nella società italiana hanno impazzato, cioè, per anni, cioè, dominato per anni le lobby dei lavoratori, come dice Vendola. Vabbè, lasciamo perdere. Buonasera, allora siete due facce di merda, ovviamente. Quello non c'è dubbio, ma la cosa per cui io godo da morire è la possibilità, che non si verificherà, che la testata Chiamasi Unità, di cui non frega un cazzo a nessuno di coloro che ci ascoltano, devo dire. No, non è vero. Non frega niente a nessuno. Diciamo che la gente per strada non mi ferma, non sta in fibrillazione per sapere l'Unità sarà in edicola dal 1 agosto. Ma chi ti ha fermato? Un pescatore di Nettuno. Ma il pescatore di Nettuno che compra l'Unità mi ha detto scusami compagno, sì, mi fido di te, sì, ma il giornale fondato da Antonio Gramsci continuerà ad uscire, e gli ho detto caro compagno, adesso questo purtroppo rimane un ma questa qua è un dialogo tra disgraziati quasi, ma come ti permetti? Comunque io godo alla possibilità che il duo Tacco 12 o Tacco 14, come ho letto da qualche parte, non è mia questa osservazione, il duo Tacco 12 o Tacco 14 compra l'unità. Il duo Tacco 12 o 14 è impersonificato dalla signora Daniela Santanchè, che ha confermato, anche se poi nega, però a me l'ha anche confermato, la signora Santanchè e la signora Paola Ferrari, sua amica, moglie peraltro di uno dei De Benedetti, per cui c'è pure un mezzo, no? Mezzo inciucio su questa cosa qua. La grandiosa coppia di amiche, come si chiama? Santanchè. Ferrari, compri l'Unità. Io al solo pensiero godo. Santanchè. Tutto bisognerà vedere da chi mi accompagno, no? Perché magari, voglio dire, in questa visione bipartisan ci potrebbe essere un imprenditore dall'altra parte che è con me, e quindi, voglio dire, aspettiamo. Vabbè, non ce lo vuole dire chi è. Questa è la vera notizia. E non ce lo vuole dire se c'è chi è. Perché saltereste sulla sedia, e quindi voglio. Ma noi sedie robuste. Aspettiamo. Le zanzare di casa mia si nutrono di me, quando il giorno scivola via si svegliano per me, quando tutto si... sembra poesia. Siamo al top, siamo al top, ragazzi. Siamo sempre al top. Qui, allora, vorrei subito sentire Marcello dalla provincia di Milano. Signor Marcello, poi ne abbiamo da dire sui signori padani, oggi è stato indagato Maroni, c'è la questione Salvini. Anche Maroni, devo dire, per una cosa un po' complicata, l'assunzione di due collaboratori, eccetera eccetera. Però vedremo. Abbiamo anche la questione di Radio Padania, perché ho appreso una cosa nel weekend, caro Parenzo. Poi te la dirò, poi te la dirò, poi te la dirò. Anche tu che passi il weekend a scartabellare Radio Padania sei messo male, amico mio. No, no, no, no, no. Aspetta, prima di Marcello, provincia di Milano, che succede? Aspetta, una telefonata in arrivo qui alla Zanzara. Chi c'è? È caduta la linea. Va bene, Marcello dalla provincia di Milano. Dai, Marcello. Buonasera, scusate. Vai, dimmi, Marcello, dimmi. Parenzo, dici delle grandi stronzate. Muore la gente sotto le bombe e tu gridi avanti l'esercito. Sei un circonciso del cazzo. Non hai rispetto neanche per i morti. Ti attento. Allora, aspetta, Marcello, innanzitutto togli quel viva voce maledetto che hai. Hai un viva voce o qualcosa del genere? Sennò ti ammazzo, ti stritolo, ti mando l'esercito israeliano a casa. Vabbè, adesso lo riprendiamo. È Fabrizio da Caserta. Fabrizio da Caserta. Gli raccontiamo come sta. Santino, provincia di Roma, dai, cazzo, su. Santino, provincia di Roma, dai. Sembri quello di Schettino, dai. Fabrizio, Fabrizio Caserta, dai. Pronto, pronto, Cruciani. Dimmi, dimmi. Ma come si fa ad andare avanti con Vendola? Meno male che ci sei tu con questi doni dissonanti, io ti amo. Meno male che ci sei tu, io ti amo, Cruciani. Potrei quasi incularti per quanto ti amo. No, io non ti amo per niente, guarda, Fabrizio. Ma che è questo? Ma come si fa andare avanti con Vendola? Io non, ma cosa c'entra? Ma non possiamo andare avanti, Ma tu rata con lo scappellamento a destra, ma come si fa con avanti? Meno male che ci sei tu con questi doni dissonanti che ci fai tornare tutti con i piedi per terra, meno male che ci sei tu già. Vabbè, Fabrizio, mi stai pigliando per il culo o stai parlando sul serio? Assolutamente no, io ti amo. Con l'amore che ci facciamo con l'amore noi? Possiamo fare tante belle cose, possiamo fare anche un piccolo parentino. Va bene, Valerio, Firenze, Valerio, dammi Valerio. Ma non è dai. Meglio che si faccia visitare questo qui? Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Io ero intervenuto sul problema Rom l'altro giorno. Ma non me ne frega niente che sei intervenuto l'altro giorno. Che vuoi dire adesso, Valerio? Non fare il riassunto del precedente. No, è possibile che non hai ritmo? Non c'è ritmo, non hai ritmo, non vale un cazzo. Grazie a tutti quelli che si lamentano come me. Dai. C'è una consapevolezza molto forte ora di questo problema. Sì. Nelle stazioni ovunque bisognerebbe cercare di fare qualcosa di più ancora, però qualcosa sta cambiando, qualcosa sta migliorando. Ma noi siamo al vostro fianco, al fianco dei cittadini, tartassati alla stazione di Firenze dall'assalto dei Rom. Assaltati dai Rom, però, 50 Rom a botta che vengono lì e pretendono non so che cosa di portare i bagagli, vergogna. È riduttivo, perché non soltanto alla stazione, sono sparsi in tutta la città. Vabbè, ma quello adesso è un altro discorso, sparsi in tutta la città, non è che c'è il pericolo Rom a Firenze. No, come no. Io quando mi sono occupato di questo problema anche in sedi istituzionali, dovete sapere. Perché che fai tu di mestiere? Scusami, che fai? Io ora mi occupo di immobiliari, gestione immobiliari, ma mi sono occupato anche della città di Firenze, sono stato eletto in consiglio comunale come più giovane consigliere comunale d'Italia all'epoca, ma ormai si parla del Cretaceo e non me ne frega quasi più niente. Vabbè, ma che cosa vuoi dire su Roma a Firenze? Qual è il punto? Dico che ogni anno non soltanto questi ci rovinano l'immagine della città e tutto il resto, ma noi paghiamo a piedi lista tutte le loro spese, cioè nel loro campo scorre acqua, fiumi, elettricità, eccetera eccetera eccetera, e questo non viene mai e io pago dici tu, ma si parla di centinaia di migliaia di euro l'anno. Ora, francamente, è giusto questo? Ma è giusto nella misura in cui l'integrazione funziona. Cioè, l'integrazione ha un costo, improvvisamente non è che a questi qua gli devi attrezzare il campo, sistemarlo, poi dopo è chiaro che se lo tengono male vanno presi uno a uno, vanno fatti i controlli, va applicata la legge. Ma io ti dirò di più, i Rom che sono ai semafori, ad esempio, immaginate, avete visto quanti Rom ci sono ai semafori, no? Ecco, a quelli lì, ad esempio, se a quelli della stazione gli facciamo fare la cooperativa... Ancora con questa cooperativa, basta, non ne posso più, stai zitto, non la posso sentire questa cosa. Toglietemi la voce a Parenzo, non posso più sentire questa cosa della cooperativa. Io non voglio più sentire pronunciare la parola cooperativa dei Rom alla stazione di Firenze, né da te né da altri, perché è una porcheria inaudita, gente che non fa nulla dalla mattina alla sera e che dovrebbe essere in teoria aiutata. Ma di che stiamo parlando? Ma in tutta l'Italia vorrebbero fare una cooperativa. ma non c'è nessuna cooperativa. Marcello, della cooperativa Rom. Bravo, bravo. Legge sostanzialmente, ma quale cooperativa? Quale cooperativa? Siamo calci in culo a lavorare come tutti. Grazie, esatto. Valerio. Marcello, provincia di Marcello, provincia di Marcello, non è possibile, cazzo, eh? Marcello è di prima. Possibile. Mi fate incazzare, non è che mi sono fatto di cocaina stasera, sono normale. Sono così. Però mettetemi le scritte giuste, no? Tecnici del suono, maestranze, eccetera, eccetera. Marcello. Allora, che Parenzo c'è? Sì, ci va. Ah, certo, tu sei quello dell'IDIS. Te lo ripeto ancora, circonciso. La Shoah che ha subito il tuo popolo non ha insegnato niente. Il tuo popolo non ha capito niente dal dramma che ha vissuto. Allora, intanto comincia intanto con l'on offende, perché se inizi a discutere di questa cosa chiamandomi circonciso, se io ti trovo per strada, come minimo ti tiro una testata in faccia. Poi dopo mi denuncio. Ma intanto un metro una banana! Che cosa vuoi tirare? Sei alto un metro una banana! Hai capito? Sei alto un metro una banana. Ma ora cosa c'entra che è alto un metro una banana? Scusami, se Marcello. Se ti presenti in zona ti tiro una testata in faccia. Poi dopo hai Krav Maga come i tuoi amici assassini, c'ha le armi bianche in mano. Krav Maga, sai cos'è o no? Lo sai cos'è il circonciso? Tiro una testata in faccia. Poi dopo discutiamo, però intanto ti tiro una testata in faccia, hai capito? Hai capito, sei un circonciso, te lo giusto dico. Per mettere, giusto per mettere in ordine le cose, giusto. Cosa c'è? Tu hai iniziato una discussione, Marcello, dicendo ti cago addosso, anti caga addosso. Ma perché devi cagarli addosso? Scusa, perché devi dire circonciso ti cago addosso? Tu odi Israele, questo è il punto, no, tu odi Israele. Io odio le persone come Parenzo che fanno dell'ironia sui drammi delle persone. 180 morti, 70% civili, non terroristi di Hamas, idiota di un Parenzo. Leggi i giornali, informati, hai capito? 70% di civili e sta ancora lì a difendere e a dire cosa l'esercito. Certo, fai rispondere Parenzo, ma è fenomeno. Intanto, primo, lì è pieno di terroristi. L'esercito israeliano è quello che prima di bombardare ha mandato dei volantini dall'alto dicendo sgombrate le case perché bombarderemo, ed è a differenza degli altri eserciti, è un esercito che ha fatto questo per far sgomberare le case, per non colpire i civili. Primo. Secondo, Hamas nasconde le bombe dentro gli ospedali e dentro le case dei civili perché sono degli infami. L'esercito israeliano lì andrà a liberare quei popoli. Marcello, rispondi. No, io guarda, non ho parole perché sentire idiozie che questo qua dice. Tu dici delle idiozie, Parenzo, hai capito? Leggi i giornali, 70% di civili, hai capito? Comodo tirare le bombe da 3.000 metri. Voglio vedere quando andate ad affrontare faccia a faccia quelli di Hamas. Gli fanno un culo così, hai capito? Ti saluto, idiota! Cristian Taranto, veloce! Parenzo, hai acceso una miccia pazzesca tu qua. Gente chiama avvelenata. Cristian, dimmi. Buonasera. Volevo parlare con Parenzo. Eccolo. Seguendo il collega, quello che ha detto prima, dice un sacco di cazzate. Come si può permettere di dire che l'esercito israeliano è un buon esercito perché lancia ottimo i volantini di sgombrare le case? Prima di bombardare. Avanza l'esercito, avanza. Buonasera a te e tutti i radioascoltatori. La Cruciani, è un'icona frusona ora, lo sa? Uomo dell'anno, direi. Allora, sentiamo la Santanchè sulla questione della Pascale, eh? Non sarei la pitonessa se criticassi, eccetera. In realtà le due non si possono vedere per mille motivi che una volta vi spiegherò. Santanchè, Pascale, poi ovviamente all'esterno ogni tanto si punzecchiano. In realtà non si possono vedere, proprio si detestano profondamente, si detestano. E poi come donna, voglio dire, del mio tempo, cioè contemporanea, secondo lei io potrei fare una critica alla fidanzata del presidente Berlusconi? Sarei un'altra persona, non sarei una pitonessa. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Arriva in aula la riforma del Senato. Salvini, il sì della Lega non è scontato e Alfano annuncia battaglia sulla legge elettorale. Beppe Grillo a Roma per incontrare i suoi, ostruzionismo 5 Stelle sul Senato, ma dialogo sull'Italia, come il PD risponde, vediamoci giovedì e discutiamo sull'immunità. Un italiano su 10 è povero, aumentano gli indigenti, ma il debito pubblico continua a salire, all'FMI l'Italia si batta contro la disoccupazione. Settimo giorno di guerra, l'80% dei feriti sono civili, con donne e bambini, l'unica strada è la pace, dice al TG3 il presidente israeliano Peres. Iniziate al Giglio le operazioni di rimozione della Concordia, il relitto sollevato dai cassoni galleggia ed è già a 30 metri dalla costa, lunedì il viaggio verso Genova. E la Germania, la regina dei mondiali, battuta l'Argentina, i tedeschi ora al quarto titolo come l'Italia, un successo frutto di talento e programmazione. Uno studente olandese inventa un sistema per ripulire il mare da rifiuti di plastica, un progetto sostenuto da una campagna di raccolta fondi che in pochi giorni ha raggiunto 40 milioni di dollari. Ragazzi, sentite questa roba di Jacopo Po, poi torno a te Parenzo, perché io sono convinto che se ti arrivasse, non ti può arrivare ovviamente perché non sei cittadino di quel paese, se ti arrivasse una chiamata alle armi da parte dell'esercito israeliano, oggi impegnato in quel di Gaza, tu accetteresti o no? Beh, ma non posso, anzi, ci sono molti, no, ti dico di più, ci sono molti, non sarei in grado perché non sono... Vabbè, non sei addestrato, non sei addestrato. Ma no, no, ma c'è di più però, io vorrei sì. dire un'altra, poi un'altra cosa, perché io a quelli che telefonano e insultano farei notare che se per caso domani dalla città di San Marino, mettiamo, sì, no, da sì. San Marino... Cominciassero ad arrivare dei missili, bravo, dei razzi... Cominciassero ad arrivare dei missili, non è che improvvisamente uno dice, oh, aspetta un attimo che vediamo cosa fare... Come minimo all'inizio risposta. Beh, noi come italiani caleremo le braghe. Siamo abituati a calare le braghe a trattare. Ho fatto l'esempio di San Marino apposta perché è dentro l'Italia. O se dal città del Vaticano, ecco, se dal Vaticano, perché diciamo che la distanza che c'è tra la striscia di Gaza e alcune Vabbè, ho capito, ho capito. Allora ecco, se improvvisamente dal Vaticano partissero dei razzi direzione Roma, cosa succederebbe qua? No, chiedo, cosa succederebbe? Cosa succederebbe se improvvisamente si iniziassero a bombardare da San Marino? Senti Jacopo Fo, l'Iraq era una dittatura ai tempi, non so perché gli è venuta in mente questa cosa, era un discorso più ampio sul Medio Oriente, eccetera, eccetera. L'Iraq era una dittatura sotto Saddam Hussein quando c'era lui, però aveva degli standard di vita, cioè tutto è cambiato con l'arrivo dell'Occidente, cioè l'arrivo dell'Occidente ha trascinato nel disastro economico l'Iraq. L'Iraq è stato distrutto economicamente, perché ci sono i terroristi adesso in Iraq? Perché una nazione che era sotto dittatura, però aveva uno standard di vita decente, molto ricco rispetto agli altri paesi arabi, è stata ridotta in una situazione di miseria totale, di abuso, di cose. È chiaro che allora nasce il terrorismo. C'è da dire... Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Servi di Roma fuori. Allora ragazzi, qui c'è la questione Salvini intanto, Salvini che è andato nel fine settimana in Sicilia, in uno dei centri di accoglienza per immigrati, dice che ci sono villette e centri commerciali, cioè che insomma alla fine sti immigrati non è che se la passano così male, dice lui. Ho visitato spazi comuni, ho visto che ci sono anche dei centri commerciali sostanzialmente dove fanno di tutto e vendono di tutto, probabilmente di sera vendono anche altro, e ho visto quello che era un villaggio costruito per i soldati americani col giardinetto sul davanti e il giardinetto sul retro. Non do giudizi, però molti italiani a Milano e in Sicilia non se lo possono permettere. Figlia della libertà. Questo centro è uno schiaffo verso gli italiani che lavorano. Poi ha detto anche che c'è gente con l'iPod e con non mi ricordo cosa. Insomma, è il Bengodi per un immigrato, mentre alcune cose che hanno i signori immigrati che arrivano in questi centri di accoglienza con i barconi, gli italiani nisba. Servi di Roma fuori. Non do giudizi sulla gestione, do giudizi sul fatto che ad oggi una struttura come questa non ha senso alcuno ed è uno schiaffo nei confronti degli italiani che la villetta col giardino non la vedranno mai nella vita. Davanti. rispunta Pellegrin. Rispunta Pellegrin. Vabbè, ho capito, su questo un po' c'ha ragione. Che noi siamo accoglienti nei confronti di questi signori che arrivano. Un po' ha ragione lui. Ma come accoglienti? Siamo accoglienti, dai, siamo accoglienti. Ma come si fa? Gli imprenditori della paura fanno passare il messaggio che questi vivono nelle villette. Ma ti rendi conto? Nelle villette. Il messaggio che questi qua fanno passare è questo. Allora, intanto ma beh, l'hai già detto mille volte questa cosa qua. La Lega scatena l'odio sociale. Allora, Parenzo, due punti. La Lega scatena l'odio sociale verso gli immigrati perché lascia passare il messaggio che stanno meglio degli italiani, che noi gli diamo i quattrini per stare qua. Devi dire Parenzo, due punti. Beh, Parenzo, l'hai detto tu. L'hai detto tu. Il Corriere della Sera blocca le rotative. No, ma senti questa cosa qui. Senti questa cosa qui. Lorenzo Ferrone, un tizio, mi scrive: disgusto assoluto. È un ascoltatore. Disgusto, assoluto disgusto per un personaggio come Parenzo che incita l'esercito di uno Stato canaglia come Israele a invadere ed occupare un popolo in disgrazia, umiliato e derubato della propria terra. Che lanciano missili, amico mio. Parenzo missili. Fuori da Radio 24, dice questo tizio. Dice questo tizio. Pensamenti. Oh, è tornato Pellegrin contro di noi. Io capisco che l'esercito israeliano è considerato brutto, sporco e cattivo. In realtà nessuno se la prende con Hamas. Ma hai già spiegato, Hamas lancia i missili e secondo te c'è una risposta giusta anche nell'uccisione dei civili? Anche nell'uccisione dei civili? I civili non sono previsti, no, un momento, i civili non sono l'obiettivo dell'esercito israeliano. Cioè l'esercito israeliano... Che cosa sono? Un danno collaterale? No. Sono un danno collaterale o no? No, assolutamente no, tant'è che l'esercito israeliano fa il volantinaggio dall'alto dalle 8 del mattino a mezzogiorno dicendo sgombrate le case. Non basta, evidentemente non basta, dai. Ma non basta, qual è l'esercito? Lì l'obiettivo militare non è l'invasione, è colpire i posti dove però ci stanno pure i civili, uno potrebbe rispondere perché no? Ci stanno i civili, no, risponde giustamente uno perché quelli fanno lì da scudo umano, non solo come scudi umani, solo come vengono usati come scudi umani, ma le abitazioni vengono tutta, usate per tenere le abitazioni vengono usate per mettere le munizioni dentro, mentre l'obiettivo di Hamas è quello di distruggere Tel Aviv. Tu sei al 100% israeliano, è quello di distruggere le postazioni militari. Ho capito, tu sei al 100% a fianco di Israele in questo caso. Dillo apertamente, dillo. Ma certamente che fermi tutti. Chiamate. Sentite Pellegrin che dice: io sono spiato da Radio 24 come la Merkel con gli Stati Uniti, amico mio Pellegrin, ma abbiamo un registratore che ripropone poi le tue cazzate, amico mio, è semplicemente questo, è un software. Caccia oltre il fiume. C'è quella bellissima foto dell'Angela Merkel che guarda Obama in una maniera perplessa, si perplime la cancelliera. E insomma, sono stati spiati pesantemente. Yankee Gone, come dico sempre. E i tedeschi hanno detto: non è questa la nostra morale. Io nel mio piccolo dico a Cosimo Causù, che è incaricato dalla redazione della Zanzara di Radio 24, spiare non è neanche la mia morale. Padania bella e libera, guardavan servi di Roma fuori, senza dubbi. Ancora Pellegrin. Quindi per Oliviero Toscani siamo subumani. Io ho detto: se i direttori della Lega sono subumani, figurati gli altri. E comunque se Oliviero Toscani, il suo interlocutore, quelli della Zanzara, come sentiamo, sono loro gli umani, io sto dalla parte dei subumani tutta la vita, sempre. Non voglio stare con loro. Loro sono gli umani, sto dall'altra parte. We don't need no education. Siete fastidiosi. Ancora taverna, voglio essere drogato di taverna contro il Partito Democratico, contro la riforma del Senato, con la dittatura, la monarchia, anzi la monarchia, voglio la monarchia. Avete detto che spaventiamo i cittadini con le parole, ebbene, voi li state rovinando con i fatti, un Senato di nominati. Né più né meno di quanto avveniva al tempo della monarchia, anzi peggio, perché almeno all'epoca li sceglieva il re per meriti verso la patria, oggi ve li scegliete da soli per meriti verso voi stessi. Contro Napolitano, sentite. Beh, ma è una sciocchezza questa, però. Aspetta. Però ci ammonivate perché chiamavamo il Presidente della Repubblica Re Giorgio. Ed è proprio lui che sta sollecitando incalzante queste riforme. Lui che proclamava il principio dei contropoteri. Contropoteri. Dove stanno i contropoteri? Dove stanno i contropoteri? Beh, qualche problemino, c'è, ovviamente, se una maggioranza prende tutto, però è normale, quando una maggioranza prende tutto, no, appunto. Nelle democrazie normali, una maggioranza prende tutto e governa. In Italia ci sono fin troppi contropoteri, diciamo, fin troppi bilanciamenti. Il problema non sono i contropoteri, il problema sono la burocrazia. Qui i contropoteri, certo. Vabbè, la burocrazia, i tribunali, i TAR, eccetera. La signora Taverna, perché lei non si vuole far chiamare senatrice o onorevole. Cittadina Taverna. Allora usiamo questo terribile tema della Rivoluzione Francese. La cittadina Taverna dovrebbe sapere che invece il nuovo Senato, ma non è poi così stupido, perché in realtà i sindaci da qualcuno sono No, non mi parlare del nuovo Senato. Non è buono, non è una bella riforma, ma sbaglia l'attacco, secondo me. Attacchi contro Parenzo. I nazisti, prima di battere un paese e bruciarlo, gettavano volantini avvisando gli abitanti di quello che stava per succedere. Che questa è storia. Paragone tra i nazisti e Israele. È una stupidaggine. Un altro che scrive: scriverò al direttore perché le affermazioni di Parenzo sono inaccettabili. Vergognoso ciò che sostiene Parenzo, sì. Disgustoso, vomitevole. Si parla di bambini e donne morti. Che vi prestiate al bieco integralismo sionista. Stai zitto. Che vi prestiate al bieco integralismo sionista propagandato da gente come Parenzo è semplicemente ignobile. Francesco da Varese. E andiamo a Parma, Iuri. Telegrafico, anche perché ormai mi si è chiusa la vena, per cui non riuscirò a parlare più di 20 secondi. Non mi basta dare dell'ignorante a Parenzo, ma mi viene proprio da dargli dell'idiota, del sionista. Cioè, dire fascista, dire sionista, visto che prima c'era con Salvini, sempre identificazione, espulsione, e poi legittimare un genocidio come quello di Israele. Nel genocidio, stia calmo, ignorante, intanto è lei. Ignorante è lei. Il nome Ben Gurion ti dice qualcosa, sai cosa sono parole virgolettate? Lui diceva che l'israeliano da cui Sharon ha preso, ogni attacco dovrà terminare con l'occupazione, la distruzione e l'espulsione. Vale a leggere. E diceva anche, parole virgolettate, cercate e li puoi andare a vedere, durante l'operazione non c'è alcun bisogno di distinguere tra chi è colpevole e chi non lo è, e tu hai il coraggio di professarti antifascista. L'errore che 35 civili contro 33 nazisti morti, l'errore che sta commettendo lei, purtroppo, come molti, è quello di mettere sullo stesso piano l'esercito di Israele con l'esercito di Hamas. L'esercito di Hamas, che peraltro Hamas è pure al governo di quel paese, ha scatenato una guerra, perché ha lanciato dei missili contro la capitale, cioè contro Gerusalemme. Hamas al governo ha scatenato una guerra. La reazione è arrivata dopo, perché se non ci fosse stato il famoso scudo che gli israeliani hanno costruito, quei missili che partivano da Gaza sarebbero arrivati direttamente su Gerusalemme. Quindi Hamas ha dichiarato guerra. Però abbiamo capito questo passaggio qua, l'abbiamo capito. No, e noi invece quello Vittorio, hai sentito come combatte su Israele Parenzo? Ha ragione, sì. Anche tu sei dalla parte di Israele? No, sono della pace, non capisco perché nel mondo debbano ancora esserci guerre per incapacità di comprensione. Le soluzioni dovrebbero essere trovate sulla base, anche perché il mondo è abbastanza spazioso per comprendere tutti. L'idea che si era detta negli anni passati rispetto all'evoluzione della civiltà e della vita in Israele è che dovrebbe essere uno Stato d'Europa, Unito d'Europa. L'idea di trovare quella è una buffonata che diceva Pannella. Non era sbagliato, perché si potrebbe immaginare che loro si trasferissero in Sicilia. Ecco, potremmo dargli la Sicilia, direi, perfetta la Sicilia. Finirebbe la mafia e sarebbe diamogli la Sicilia al posto di Israele. La soluzione di Sgarbi è questa: invece dalla Sicilia allo Stato di Israele. Sì, lo Stato di Israele. Ma non ci vogliono stare lì. Ci vogliono stare, ma non sarebbero male. Poi Netanyahu va al posto di Crocetta e siamo a posto. Così mettiamo a posto due cose insieme: la questione palestinese quella siciliana, che sono altrettanto gravi. Diciamo che la mafia in Sicilia con l'esercito israeliano non credo potrebbe avere vita facile. Sarebbe una soluzione, forse anche Parenzo è d'accordo. Lui poi è ebreo, io credo. Sono molto d'accordo, è una soluzione geniale. Invece di levare Israele da lì, potremmo innanzitutto cominciamo a dargli la Sicilia. A dare la Sicilia. Lo scambio può essere fatto, credo, per loro utilmente. È che lì loro sono talmente più avanti dal punto di vista tecnologico, scientifico, culturale, che i palestinesi vivono non soltanto le difficoltà del rapporto, ma anche la loro incapacità di avere una forza culturale, economica. Israele è un paese modello, vive circondato da gente che vuole insidiarlo. Allora, a questo punto ti lascio Israele e vediamo come diventa lo Stato palestinese. Vabbè, però c'è tutta la, la roba, come sai, c'è tutta la questione religiosa, le origini, eccetera eccetera, c'è tutto. No, è proprio che un arabo ha una visione statica della società, un ebreo ha una visione dinamica della società e quindi hanno un'economia che è più forte di quella americana persino. Beh, ma dico, capito, di fronte ai bambini ammazzati, perché Parenzo dice io sono dalla parte, aspetta un attimo, Parenzo, stai zitto un attimo, di fronte, oddio, vabbè, l'hai già detto, l'hai già detto, l'hai già detto 40 volte, non è che lo puoi ripetere 50 volte, l'hai già detto. Sì, va bene, d'accordo, non decide di ucciderli in maniera scientifica, fa, diciamo, un'operazione militare per colpire obiettivi. Ma è al governo, se Riina fosse, no, però ascoltami, perché se Totò Riina, anziché stare al 41 bis, fosse al governo e dichiaratamente dice io sono mafioso, sono al governo della regione e ogni tanto manda dei missili, ma uno Stato che è confinante cosa farebbe? Ma come minimo cercherebbe di difendersi, come minimo. Ora Israele ha anche la colpa di aver riconosciuto quel governo, cioè Israele, Vittorio, qualcuno paragone gli israeliani ai nazisti per le rappresaglie, qualcuno fa questo paragone, Vittorio, capito? Vittorio, sì, ma questo lo fanno sempre, ma è una follia. Trattandosi di una situazione, che stanza è? Ma che stai a fa? Ma come stanza? Ma dove sta? Che stai, in albergo? Di una situazione. Ma dove sei? No, in albergo? Dove sei? Sì, sono arrivato adesso in un albergo. Ma c'hai la solita solita femmina dietro, ovviamente, no? A traino. Insolita, vorrei dire, insolita. Di origine. Di origine israeliana. No, ma che di origine israeliana? Si fa quale origine? In ogni caso, volevo che per chi ha patito la violenza del nazismo. Vabbè, non si sente una mazza, dai. Vito da Bari, dai. Vito da Bari. Non c'è Roberto da Roma. Allora, Giuseppe. Ciao Roberto, dimmi. Guarda, la meraviglia assoluta, perché tutti questi temi vengono trattati con un Parenzo affacciato su una finestra a Nettuno che guarda il mare tutto bello incamiciato, una meraviglia, proprio sembra una star in vacanza. Ma che ne sai tu, scusa, sei passato da lì? Ero sotto fino a un secondo fa, poi dopo ovviamente c'è il tempo di... Ma Parenzo non può stare a casa normalmente seduto invece di stare in balcone a farsi vedere la gente che parla al telefono come se non stesse facendo una mazza? Sono in balcone, ha ragione l'ascoltatore, lo saluto, peccato che non mi ha salutato, sennò poi sarei andato a prendere l'aperitivo alle 9 con lui. Ma sono sul balcone perché altrimenti non si sente. Cioè mi sono messo sul balcone perché questo è il punto in cui prende meglio. È questo il punto. Beh, se no, adesso vado dentro. Cioè tu stai trasmettendo alla Zanzara da una specie di strapuntino su un balcone di Nettuno. Tu capisci come sei ridotto nella vita? Come ti sei ridotto? Uno dovrebbe fare mente locale e dice: ma come mi sono ridotto nella vita? Collegarmi con la Zanzara da Nettuno a fare il babysitter a Nettuno, amico mio. Ti sei ridotto malissimo. A fare il papà. Ma quale papà? Ma a fare il babysitter, ma la gente normale. Male lavora, gli uomini lavorano a 37 anni, non stanno con i figli, lavorano, lasciano i figli con le tate, con le babysitter. Ma io infatti lavoro e poi i figli nato a un anno, i bambini vanno abbandonati alle babysitter, alle tate, ma chi se ne fotte, dai, la gente deve lavorare, produrre, no, non fare là col bambino, no, voglio fare il papà, ma quale papà che non si ricorda una mazza, dai, su. C'ho anche perfino il cagnolino. Allora, Maurizio Gasparri ha scritto: nella notte dei mondiali, della finale mondiale, dopo la vittoria della Germania, che orrore la giacchetta rossa che bacia e abbraccia. Ora più arroganti ancora, il Brasile ci ha fatto sto bidone. Insomma, contro la Merkel come al solito. Risposta a sorpresa, è riuscito a litigare pure col medico di Berlusconi, il mitologico Alberto Zangrillo, il quale ha scritto 4 minuti dopo. La Germania ha vinto con merito, ha risposto Gasparri. Ma se c'è una cosa in cui c'è superiore la classe politica, voi tutti siete ridicoli. Zangrillone, come lotta! Contro replica, anzi replica di Gasparri, non replico come merita in pubblico per non dare spettacolo con facili battute al suo indirizzo. Quali sarebbero queste facili battute però? Oh, a Napoli De Magistris sembra impazzito, Ha registrato, ma non vale per la legge italiana, il primo matrimonio all'anagrafe. Omosessuale, ovviamente. Beh, impazzito, perché impazzito? Ma sì, ma quando non c'è una legge, è inutile fare ste buffonate. Queste sono delle baracconate. Beh, per farsi pubblicità. Ma non serve a nulla, dai, non serve vero, a niente. Non serve vero. A niente, dai, diciamo la verità. Se tutti i sindaci d'Italia lo facessero, magari. Non serve a nulla, non serve a nulla. Qualcosa. Non serve a nulla, dai, diciamo la verità. Io sono a favore del matrimonio pure dell'adozione, come sapete, lo voglio ripetere. È vero che non serve. Servono a nulla, solo a fare qualche titolo sui giornali, dai, qualche titolo sui giornali. È vero, questo è vero, questo è vero. La Grosciani è un'icona frusciona ora, lo sa? Non mi aspettavo che ci fosse un'altra Boldrina, un qualcosa sulla Boldrini che vuole... No, non c'è niente in audio, peccato, Su quel meraviglioso convegno in cui voleva cambiare il modo in cui chiamare... Il sindaco, la professoressa, il ministro, la presidente, la presidentessa, voleva imporre una specie di vademecum ai giornalisti, amici miei. Ce ne fottiamo totalmente noi. Chiamiamo il sindaco, il presidente, ce ne fottiamo. Ma donna, uomo uguale. Leonardo Livorno. Sì, vabbè, siamo fastidiosi. Leonardo Livorno. Sì, dimmi, caro. Ciao, ascoltami. Ma Pena, l'hai mai mangiato i crauti? Sì, a voglia, anche di recente a Trieste sabato, per esempio. Immagino. Perché ancora, qual è il problema? Secondo me, Paola Ferrari, io l'ho vista un'ora fa su Twitter la foto, cioè non è possibile. Impietoso il paragone tra orrenda Merkel e giovani argentine inquadrate poco fa. Gasparri scatenato contro la Merkel. Allora? Paola Ferrari, che anche lei ha commentato ieri i mondiali, per me, lei ha la figa che gli puzza di crauti scaduti dell'idol. Vabbè, ma sei un cretino tu. Ma questo è scemo. Ma che te ne frega della Merkel? Che te ne frega della Merkel? Anzi, della Ferrari, scusa. Della Ferrari, scusa. Vai a vedere la foto che ha su Twitter. Vabbè, allora qual è il problema? Non ho capito. Che cos'hai contro Paola Ferrari, scusa? Non vuoi comprare l'unità? Vuole comprare l'unità, e allora? Con la Santanchè. E vabbè, allora, se hanno i soldi e se c'è un progetto editoriale, qual è il problema? Meglio fallire? Meglio fallire? Meglio i soldi dello Stato? Meglio i soldi dello Stato? Meglio fallire? Sì, ma tutta la vita. E allora fallissero. Importante che non tolgono i soldi. L'alternativa tutta la vita. E vabbè, ma dillo, ma tu lavori all'unità? Ma no, io non lavoro all'unità, però mi stupisco che Davide non dice niente a riguardo. No, io infatti su questo volevo dire semplicemente una cosa. Allora, a parte la volgarità di questo ascoltatore su questa roba. Sì, vabbè, però detto, Davide, vatti a vedere la foto su Twitter. Però hai detto una porcheria oscena e volgare, inutilmente volgare. Dopodiché il tema è questo. Primo, quelli che lavorano, la decisione dovrebbe essere presa ovviamente da quelli che lavorano là, perché giustamente, come dice questo ascoltatore, in un momento di rara lucidità, quelli diventano l'editore. Poi, dopodiché, ha ragione, la questione non è semplicissima, perché secondo me chi ci lavora, ad esempio, pur di lavorare, e se vengono date delle garanzie sul progetto editoriale... Vabbè, senti, fa troppo lunga, mi hai rotto le scatole pure te. Andiamo a Ismen, dai, su, basta con questa storia. Ismen, Pesaro, ma chi sei tu se danno delle garanzie? Ma di che stai parlando? Ismen, Pesaro, dai. Danno delle garanzie, ma che c'entri tu? Cioè, basta soldi pubblici, innanzitutto, basta, da domani basta soldi pubblici. Ismen da Pesaro. Sì, volevo mandare a quel paese. Ma poi falliscono tante aziende. Qual è il problema se chiude un giornale? Non riesco a capire. Io voglio bene a tutti, non ho problemi. Se un giornale chiude, falliscono tante aziende di cui nessuno si occupa. Perché il governo italiano dovrebbe occuparsi della chiusura dell'unità? Cioè, non riesco. Come anche se il Sole 24 Ore fosse in crisi, se Radio 24 fosse in crisi, io non chiamerei mai, non direi mai, beh, un'istituzione che deve essere salvata. Se uno non fa i soldi, crolla, chiude, tutti a casa, via. Normale, con tutte le assistenze possibili, immaginabili che abbiamo, e ne abbiamo tante di paracadute, di protezioni, eccetera, eccetera. Come avranno anche i lavoratori dell'unità. Cioè, non è che uno dice no, Renzi salvi Radio 24. Ma ti rendi conto, io faccio un appello, Renzi salvi Radio 24. No, vabbè, per la storia di Radio 24. Però. Ma è una cosa. Mi sentirei ridicolo, patetico. Devo dire la verità, mi sentirei ridicolo e patetico. Loro vogliono salvare un posto di lavoro. E va bene, d'accordo, ma va benissimo. Ma perché devi chiamare il governo? Ma figa degli imprenditori, c'è la Santanchè che vuole mettere i soldi. Ma aspetta, perché lì parli di un progetto editoriale, però. Vabbè. Non è che uno mette i soldi. Dai, con questo progetto editoriale. Ma tu credi veramente nelle favole? Ismen Pesaro, dai, Ismen Pesaro. Fammi sentire Ismen Pesaro. Sì, buonasera. Volevo mandare quel paese Parenzo che pensa che Hamas, con quelle cazzate che butta giù a Israele, li può fare un cazzo a Israele. Invece a Israele, con tutto l'armamento che c'ha, li vuol mangiare vivi. Non lo so come mai. Beh, innanzitutto se voleva mangiare vivi, l'avrebbe già mangiati vivi, Ma li sta mangiando vivi, poverini, non c'è neanche da mangiare, quei quattro coglioni lì della Hamas, come cazzo che si chiamano, li mandano le bombolette a gas a Israele. Ma quelli sono proprio scemi, e fanno bene che non li ammazzano almeno tutti, e arrivano fino alla Mecca e Medina, che sti cazzi coglioni sceicchi di merda si cominciano a svegliarsi un po'. Allora, questo simpatico, questo editorialista del quotidiano, delle settimane, del mensile Limes, questo simpatico uomo geopolitico, ha fatto però nella sua follia una sintesi interessante, cioè dice la colpa è quella dei paesi arabi, questa è la sintesi, mi sembra, di quello che lui ha detto, cioè la popolazione civile che vive là a Gaza, è chiaro che sono della povera gente, messa in miseria da un governo di ladri, e questo ha ragione su questo. Vabbè, adesso qui non è lo spazio della sociologia, no, capito? Non è lo spazio della sociologia. Se vuoi soltanto Mustafa insulti, da Modena, non voglio solo insulti, ma Mustafa da Modena. Fare, fammi sentire il signor Mustafa da Modena. Mustafa, sì, pronto? Dimmi, caro. Niente, io volevo intervenire per Parenzo, che ha detto una sciocchezza immensa, perché ha fatto l'esempio con San Marino, con Gaza, che è una cosa della città, perché San Marino sono persone liberi, a Gaza la gente non può neanche uscire, non può neanche cambiare il paese. Io sono preso, ma come non può uscire? Andare. Non può. Guarda che Gaza c'è un libero governo, c'è un governo dove i signori di Hamas che lanciano uno di Gaza, missili. Scusami, uno di Gaza, se sente la guerra a casa sua, se vuole andare in Egitto, guarda che quelli di Gaza, guarda che possono, molti palestinesi lavorano in Israele, guarda che delle armi non a casa, guarda che molti palestinesi lavorano in Israele, lavorano in Israele. Ma hai visto quante fila fanno per uscire? Ho capito, certo, ma perché sembra normale che un paese si armi per lanciare missili contro Gerusalemme e Tel Aviv? Ma secondo lei la popolazione di Hamas manda i razzi? Voi state ammazzando non la popolazione, il governo, ammazzati, si può anche fermare. Si può fermare anche prima, sapendo che state ammazzando le persone, si può anche fermare prima. Tanto è una lotta, è una diatriba che non finirà mai. Che non finirà mai. Fermi tutti. No, hai già detto troppo, hai già detto tanto. Con noi, autore di un meraviglioso libro, almeno così mi segnalano, il professor Domenico De Masi, sociologo, professore di sociologia del lavoro. Buonasera, professore. Buonasera, beato lei che lo trova meraviglioso. Mi dicono. Non l'ho neanche letto. Mi dicono, non l'ho manco letto, figuriamoci. Io non leggo, io mi picco della mia ignoranza, come diceva una volta il professor Tremonti. Noi non leggiamo libri. Noi libri, cultura, metto mano alla pistola. Quindi una persona adatta per scriverli. Scrivere in realtà manco per quello. Cioè, quando sento la parola cultura, professor De Masi, metto mano alla pistola, diceva, come dire, il noto gerarca nazista, noto gerarca. Bravo. Signor Goebbels, se non mi sbaglio, se non mi sbaglio. Sì, quello schifoso era. Ma sì, certo, quello è, non c'è dubbio. Però senta, professor De Masi, io volevo sapere, lei considera i nazisti simili agli israeliani, cioè gli israeliani simili ai nazisti per questa cosa che stanno facendo nei confronti dei palestinesi, oppure sono cattivi i palestinesi che sparano i razzi contro Israele, così tanto per iniziare leggeri, professor De Masi? Sono entrambi esseri umani, probabilmente maschi. E cioè negli esseri umani probabilmente maschi c'è un lato terribile che è felino e viene fuori di tanto in tanto. La cultura dovrebbe essere quella cosa che frena l'aspetto felino e esalta quello umano. Cioè lo vuole dire anche a me, lo vuole dire anche a me, diciamo. Lo voglio dire a tutti. C'è in ognuno di noi una pelva e ogni tanto esce fuori. Bisogna stare attenti a educarla in modo che resti dentro. Ma secondo lei dunque quando uno tira fuori la belva c'è bisogno questa belva di frenarla in tutti, in tutto, anche per esempio nel sesso? Beh, il sesso insomma non fa male a nessuno, tutto sommato, a meno che non sia stupro. Se è consenziente non fa male a nessuno, perché lo vogliamo frenare? No, è che ne so. Ci sono un paio di cose belle nella vita, se le freniamo siamo fregati. Allora, abbiamo la pubblicità, poi torniamo con il professor Domenico De Masi, Mappamundi. Ottima trasmissione, sempre la visione. Volevo dirvi, cari ascoltatori, che oggi ho portato i miei saluti in carcere al professor Dell'Utri, eh? Caro Parenzo, mi dispiace per te. Oggi, attraverso un messo, un messaggero che è andato lì. Se tu l'hai fatto, lo dovresti fare anche per No, no, perché chi l'ha detto? Hai fatto un saluto, va bene. Ho portato il mio saluto personale, No, lo voglio dire come elemento di trasparenza, non me ne sto vantando. Ho detto semplicemente come elemento di trasparenza che oggi... Sono tanti detenuti che sono nelle celle, sì. Io ho portato attraverso un messo una persona che andava a trovarlo, i miei saluti personali al professor Dell'Utri. Tra l'altro c'è anche un quadro che mi hanno fatto, che vogliono vendere. A parte che non è professore. Vabbè, ma professore lo dico così, no? Professore De Masi, non Dell'Utri. Ah, ecco. Professore De Masi, non Dell'Utri, certamente. Però volevo dire che mi hanno anche dipinto, un pittore siciliano mi ha proposto l'acquisto di un quadro dove c'è un bellissimo ritratto di Dell'Utri, bellissimo, straordinario. Che sarà una delle operazioni di Giorgio Grasso. Devo dire di sì. Professor Giorgio Grasso, che ricordo non Giorgio Grasso. Siamo parlati, ma a naso è un'operazione del signor Giorgio Grasso. Guarda, sì, però a naso. Professor Giorgio Grasso, che grande critico d'arte. Ecco, fine che non è alto grasso del Corriere. No, né il presidente del Senato. Ma è molto meglio del Senato. Ma è molto meglio del presidente del Senato, perché capisce molto più di politica del presidente del Senato, Giorgio. Lo voglio ripetere, il professor Giorgio Grasso, ex collaboratore di Vittorio Sgarbi, grande critico d'arte, il quale mi propone l'acquisto di un quadro che raffigura, sapendo dalla mia passione per Dell'Utri, raffigura questo Dell'Utri abbastanza accigliato. Dal modico prezzo di la 5.000 euro. Ho detto, caro Grasso, però scusa, abbi pazienza. Cala. Sì, vabbè, Dell'Utri, però cala. Infatti voglio calare il prezzo. Abbassiamo il prezzo. Bene, siamo in collegamento con il professor Domenico De Masi, sociologo, professore di sociologia del lavoro, persona molto seria, al contrario di noi, però il mix... Molto. Il mix è esplosivo. E allora, De Masi, io voglio chiedere subito a lei una cosa. Ma i leghisti che dicono che, per esempio, lei che è un grande esperto di immigrazione anche, no? Bravo. Allora, i leghisti che dicono e sostengono che noi accogliamo gli immigrati in alberghi a 4 stelle, che sono privilegiati, cioè li considera delle bestie, dei razzisti, come li considera? No, dei bambini che credono alle favole. Ah, bambini che credono alle favole, addirittura. Certo, che altro possono essere? Basta andare in Sicilia, andare a Lampedusa, andare a Caserta per capire come stanno gli immigrati, chi vuole. Ma anche credo che nel nord ci siano situazioni terribili. Quando mai gli immigrati sono stati trattati bene? Io sono stato emigrante, ho emigrato a Milano, poi ho emigrato a Parigi. Vabbè, non è la stessa cosa. E poi ero un emigrante tutto sommato di lusso, nel senso che ero uno studente e poi un professionista, ma fossi stato un semi-analfabeta. Per quando poi guardi, arrivano un sacco di laureati, sai che l'anno scorso dall'Italia sono emigrati 6.000, mi pare 500 laureati, quelli che noi chiamiamo i cervelli, poi non si sa se un laureato è un cervello, comunque quello pure è vero, sono emigrati 6.000 e 500 laureati. Sa quanti ne sono arrivati in Italia l'anno scorso? Quanti? Dica una cosa. E non lo so, 1.000. 99.000. Addirittura. Magari che hanno studiato in università serie almeno. Capito? Però scusi, che c'ha in testa sto Salvini, secondo lei? Le pigne? Che c'ha in testa? Non lo so, non è cresciuto sul piano, sia poco da fare, intellettuale, sul piano culturale. Guarda, il professore, deve studiare, poca roba in testa, dice, poca roba. No, magari c'è molta roba, ma non utilizzata. Utilizzata oppure utilizzata male? Ho utilizzata male, insomma, non ha studiato il ragazzo, che dobbiamo fare. Ma non è l'unico, No, per carità. Lei dice che non è l'unico. Il professore, secondo me, il professore sarà d'accordo, come visto che lui è sociologo e usa un linguaggio immaginifico. Io li ho definiti imprenditori della paura, ma non solo, sono di più che imprenditori. Sono quelli che hanno bisogno di alimentare il conflitto e lo scontro. Cioè sono partiti che nascono, forse il professore che è sociologo sarà d'accordo, nascono proprio con l'idea di alimentare un conflitto. Hanno le villette. Cioè lei si vergogna un po' per quello. Io sarei quello che usa il linguaggio immaginifico. Io lo uso. Lo usi tu perché è molto più concreto il professor De Masi, altro che le stronzate che dici tu, Parenzo. Ma scusi un attimo, professore, scusi un attimo, ma sono. Sì. Lei si vergogna un po' quando sente parlare qualcuno così sugli immigrati, i barconi, bisogna bloccare, riportare quelli che arrivano i barconi. No, mi vergogno come professore perché faccio parte del mondo della scuola, dovrei aver insegnato molto di più. Noi non abbiamo insegnato niente. Ha detto Pagnoncelli che il 50% degli italiani, maggioranza degli italiani crede che gli immigrati siano la metà della popolazione, cioè praticamente 30 milioni di immigrati, si figuri un poco. Quindi abbiamo informato male, voi come giornalisti, noi come professori. Cioè gli italiani sono ignoranti da questo punto di vista? Li abbiamo resi ignoranti, sì, che è una cosa diversa. Vabbè, li avete resi ignoranti, magari non vogliono imparare, agli italiani piace semplificare, no? Oppure piace vedere il pericolo, no? A tutti piace semplificare, però la semplicità è una complessità risolta. Se uno non insegna la complessità, non si arriverà mai alla semplicità. Il bello è che un passo successivo, non è un passo precedente, si arriva alla semplicità, non si parte dalla semplicità. Capito, Parenzo? No, certo, è vero, ha ragione. E tu sei un demasiano alla fine, da questo punto di vista. Assolutamente sì. No, ma volevo chiedere proprio al professore, questi partiti alla fine, sto parlando di Salvini, ma non vorrei personalizzare, non è lui, è quella roba lì. Devi personalizzare. Sì, no, devo personalizzare perché c'è il leaderismo, quindi è chiaro, lui è la Lega oggi. Ma questa roba qui, cosa crea nella società? Cioè crea odio, crea malumori, cioè... Qual è la risposta a questa ma roba? Dai, su, ma che domanda è? Mamma mia, che noia! Ci vogliono più immigrati, in Italia, secondo lei? Sicuramente non crea affetto. Che domanda, mamma mia, ma perché Parenzo è così stupido qualche volta? Cioè, quando si tratta di cose così, che si diventa improvvisamente cretino, cioè, con delle domande banali. Delle cose pazze. Professor De Masi, la realtà è nostra. Per esempio, la Boldrini, no? Cambiamo argomento. La signora Boldrini che vuole essere chiamata la presidente, la presidentessa, eccetera, che vuole trasformare tutti i nomi a femminili. A me mi pare, scusi, professor De Masi, una boiata pazzesca. Una boiata infinita. In effetti ci sono maschi e femmine. Se con una parola si possono dire due cose, tanto di guadagnato. Se io dico presidentessa, dico che si tratta di un presidente di sesso femminile, quindi ho risparmiato tempo. Siccome io sono napoletano, cerco di risparmiare il più possibile fatica, quindi dicendo presidentessa dico due cose, figlio due piccioni. Ho capito, ma uno non è che può imporre a un linguaggio nuovo, non è che chiamarlo presidente Boldrini sia un'offesa o un segno di maschilismo, no? No, perché è un segno così, ognuno dica quello che vuole. Il linguaggio è un fatto libero. E c'è bisogno di fare i convegni alla Camera per cose di questo tipo, secondo lei, professore? No. Ma per carità, io spero che non abbiano fatto convegni alla Camera. No, l'hanno fatto purtroppo, l'hanno fatto per cambiare il linguaggio, per istruire i giornalisti a utilizzare un linguaggio più consono al fatto che esistono le donne nelle istituzioni, esistono le donne che fanno i ministri, dunque bisogna dire la ministra invece di ministro. Io dico ministro e me ne fotto, scusi professor De Masi, se uso questo. Perché ministressa è ancora peggio. Ma perché invece ministra è bello secondo lei, la ministra. No, è agghiacciante, arriva con la minestra, non è assolutamente possibile. Ma perché? Queste sono le cose, immagino, che facciano incavolare Renzi, perché sono perdite di tempo per lui che è veloce, questo peggiorerebbe lo stato. Senta, lei che è napoletano, che voto dà De Magistris come sindaco? Ma è un matto squinternato, per carità. Un matto squinternato, eh? Sì. Cioè, in che senso? Vi faccio un esempio, perché è un matto squinternato? Ma le faccio un esempio. Mi hanno chiamato l'anno scorso a fare un dibattito con lui, sì, sul forum delle culture, che è una, sì, cosa, sono arrivato soldi che hanno sprecato in gran parte, eccetera. E io ho spiegato, mi hanno chiesto di spiegare, sì, come si organizza un evento. E ho detto che c'erano alcune fasi, alcune, sì, ricerche, sì, da fare, eccetera. Mi ha detto, no, ma professore, noi non abbiamo tempo per fare tutto questo. La direzione l'ho assunta io direttamente perché c'ho un grande aiuto. Sì. Ha messo la mano in tasca e ha cacciato un cuorno. Ha detto, questo è l'aiuto al quale io mi aggrappo per risolvere meravigliosamente questo forum. Ma non ci credo. Cioè, ha tirato fuori, ma scherzavo o era serio? Intellettuali, per esempio. Ma era uno scherzo, una battuta, no, oppure? No, che potessi dire. Ma la città com'è? Al disastro la città com'è? Ma è un malato terminale. Un malato terminale. Ma possibile? Sì. C'hanno tutte queste speranze, ma com'è? Proprio incapace, il signor De Magistris, incapace totalmente. Ma guardi, Napoli, se avesse come sindaco un triumvirato fatto da Churchill, da De Gaulle, e da Roosevelt, manco ce la farebbero. Si figuri con De Magistris. Cioè, ormai è da buttare via Napoli, dice lei, ad abbandonare. Si è buttata via. E che bisogna fare con sta Napoli? Azzerare tu? Che bisogna fare? L'esercito? Che ci vuole? Ma io non sono un indovino, sono un profeta, che ne so, completamente diverso. Appunto. Quindi non le so dire cosa succederà. La darebbe agli americani, che diamo agli americani. C'è un indicatore. Ogni anno il Sole 24 Ore fa una graduatoria, sì, della qualità della vita delle 107 province, sì, italiane sulla base di 32 parametri. Ma questo lo sappiamo, sì. Napoli è al 107° posto, cioè all'ultimo. 10 anni fa era il 93. Ma la vogliamo dare? Ma la vogliamo dare, che ne so, in gestione alla Merkel? Ma io credo che le ho detto che 3 non ce la farebbero, se ne mette 4 è ancora peggio. Ma non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Ormai. Perché noi napoletani siamo come i Tuareg, diceva Pasolini. E ci lasciamo morire. Addirittura. Ma lei ci vive ancora a Napoli o no? No. No, io ci vado come turista per non mette piede, per guardare la necrofilia dei napoletani, addirittura dei paesani. E così c'è pure da fare. È inutile che ci giriamo intorno. C'è Camorra che impazza, sindaci incapaci. È una città che consuma più di quanto produce, però sopravvive. Come mai? Come mai? Il nero, il nero. Certo, è la Camorra il nero, c'è niente da fare. È così. Per cui non è, dice De Magistris, poi quello De Magistris ci mette un carico da 90, dice lei, perché c'è De Magistris, ci mette la follia amministrativa, insomma, che non giova naturalmente. Non è che la razionalità gioverebbe, però la follia aggrava, diciamo. Senta, oggi addirittura ha registrato un matrimonio gay. Questo sarebbe il primo atto razionale che ha fatto in 4 anni. Però anche questa è una mezza buffonata, una pagliacciata, non serve a niente tanto. È forte, però, perché come non serve a niente? Serve ai due gay che si sono. Ma non serve perché non ha. È un fatto indicativo. È un fatto così, non ha una. È forte, però, il professore, perché le stesse cose che ha detto sui napoletani, dette da un napoletano come lui, hanno un valore. Se le stesse cose le dice Salvini, cosa che ha detto, no, Salvini? Beh, non proprio così, non è che ha detto delle sui cose. Sui napoletani, così. No, ve l'ha detto con un linguaggio diverso. E Salvini non è sociologo. Sì. Sì. È il segretario della Lega. Nella sostanza, però, ha detto le stesse cose, certo, con una volgarità, come dire, una prudenza maggiore, Salvini. Però non so i napoletani come prenderanno le parole del professore. Però, siccome c'è una bella differenza, perché Salvini implicitamente dice che il cupio di soldi sta nella natura di nella natura del napoletano. Vabbè, lei più o meno ha detto la stessa. Io dico che è una volontà precisa, perché tenga conto che il sottosviluppo è una cosa seria, proprio bisogna applicarsi per cioè tempo. Sono un po' subumani i napoletani, dice lei. No, sono semplicemente degli sottosviluppati. Dei grandi artisti del sottosviluppo. Beh, e dunque sono sottosviluppati. No, sono grandi artisti del sottosviluppo. Okay. Diciamo, come Michelangelo faceva statue, i napoletani fanno sottosviluppo. Grazie professore, a presto, grazie. Arrivederci. Siate felici. Anche lei sia felice, mi raccomando, non studi troppo, ogni tanto si dedica a qualche cosa di più ludico. Ma come si fa a essere ancora marxista? Perché lei è ancora marxista, ho letto da qualche parte. Sì, io sono ancora marxista. Ma è professore, su. Tra le tante bufale dette nell'Ottocento, quello ne ha detto un poco di meno. Primo. Chi? Secondo, Marx scriveva benissimo. Terzo, usava ironia. Ma ho capito, professore, però non è che uno dice Marx, dice sono ancora marxista, ma è un modello morto, finito, distrutto. Ma no, io sono ancora marxista perché ho letto Marx. Ah, vabbè, perché le piace così come scrittore. A presto, grazie, arrivederci. Arrivederci. Che tempi. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. Pasquale da Imbassago, la sera vuole la battaglia e vuole sangue e merda. Sangue e merda, chiaro? Chiaro, amico mio. D'accordo! Ma lei gira sempre intorno a me e balli su twist, e balli su twist. La zanzara twist. Hai sentito la signora Marchi dice d'accordo? Una botta nel braccio. D'accordo! Mi sa che te la porto qui in studio, te la porto qui, Ma io voglio stare a centinaia di migliaia di chilometri di distanza. Mi sa che te la porto qui la signora numero uno assoluta, la numero uno. E io le dirò due o tre cose. Io ho un'attrazione particolare per i mostri. No, non dire così, dai, non dire così. No, per le brave persone. No, ma mi pare dotata comunque di grande. Cioè, è sempre la numero uno. È una che ha. No, voglio dire, mettiamoci d'accordo. Se tu dici che ha carattere, vabbè, ok, d'accordo. Quello anche, ragazzi. Ma anche Arsenio Lupin aveva carattere, no? Anche Arsenio Lupin aveva carattere. Allora, fermi tutti. Io ho fascino. Ma ho un fascino. Ma se andresti ad esempio, se ti capitasse, no? Dice vado in vacanza, che so, a Sabaudia con Domitilla Savignoni e l'avvocato Trucco. Oppure vado due giorni con le signore Marchi, cosa scegli? Vabbè, tu? Ma che Sabaudia c'entra? Con... Ma è diversa, no, la cosa. Ma... Andresti in vacanza con la signora Marchi, tu e quell'altra, ma... è la nobile. Io sì. Ma perché no? Ecco, perché no? Allora, due giorni. Punti, andrei in vacanza due giorni con quelle due brave persone lì. Sei qualificato da solo, guarda. Che la mattina, poi quando ti svegli, tutto sta, sei già ricoglionito la mattina, no? In vacanza. Ah, che bella giornata. Allora! Io adesso vado al mare! Ma dico al mare, un attimo, ma non è che parla così anche nel privato, dai! Allora adesso io, Cruciani, ti voglio portare con il pedalò soltanto a 40.000 euro al giorno! Ma come 40.000? Un po' troppo! Un po' troppo! 4 euro costa! Allora se non sali sul pedalò mi faccio chiamare da Donascimento! D'accordo? Allora ragazzi, una ricerca dell'Università di Cambridge svela una cosa che veramente è l'ovvio, cioè che il sesso è come una droga, può scatenare gli stessi meccanismi di dipendenza delle sostanze stupefacenti. È vero, tu dovresti farti curare. È vero, ma palla finita. I ricercatori hanno utilizzato la risonanza magnetica per analizzare le reazioni cerebrali di due gruppi di soggetti, uno con la vita sessuale normale e l'altro gruppo di sesso compulsivi. Insomma, con i risultati che piuttosto banali, che il sesso è come una droga, cioè può scatenare gli stessi meccanismi di dipendenza. Cioè, ci voleva una ricerca dell'Università di Cambridge per dirci che uno può essere dipendente anche dal sesso. Ci sono le cliniche specializzate per questo. Andrea, provincia di Macerata. Ah, Francesco, provincia di Matera, dai. Pronto? Dimmi, Francesco. Buonasera, sei lo scornacchiato nazionale. Se vuoi ti spiego cos'è scornacchiato. Vabbè, l'abbiamo già capito. Dimmi. Volevo dire solamente due cose, visto che voi parlate sempre e non si capisce da che parte siete, da una parte o dall'altra. Io faccio il camionista. Volevo dire al signor Sgarbi là, il tutor dell'ambiente, di tutte le cose che vuol fare lui, perché ha elogiato una volta, un mese e mezzo fa, ha condannato, ha visto che non andava condannato l'onorevole Berlusca perché lui paga 500 milioni di euro. Ma chi? Ah, Sgarbi, quando ha detto che Berlusconi non andava condannato per la questione di Mediaset, perché uno che paga tutte quelle tasse, ma quella è una stronzata. Uno può pagare anche un miliardo di tasse e poi essere punito perché evade 10 centesimi. Ho chiamato per questo perché voi non l'avete ripreso. Ma non l'abbiamo ripreso, ma noi lasciamo parlare tutti e poi facciamo, diciamo, quello che diciamo. Però il discorso che io, da dipendente, quando pago le tasse, come quelle sono uguali alle tasse che paga Berlusconi, volevo dire. Poi volevo dire ancora un'altra cosa. Veloce, quando però, mettete, Sì, velocissimo. Quando mettete in linea le persone, fatele parlare, se le fate parlare, oppure ditegli che non c'è spazio. Un'altra cosa ancora. Francesco, senta, io faccio quello che mi pare. Do spazio, non do spazio, taglio, non taglio, faccio quello che voglio, a seconda del mio istinto e di come mi gira la testa, capito? Alfonsi di Firenze, volevo mandare un messaggio a Alfonsi di Firenze. E qual è il messaggio? Dobbiamo scaricarci gli scontrini fiscali, deve fare la patrimoniale, queste sono le cose che deve fare per la gente, non le chiacchiere che stanno facendo il patto del Nazareno, che chissà che cazzo di mignotte parlano, lui e l'altro. Beh, adesso non è mica detto che parlino di mignotte, non necessariamente. Ma non lo so, visto che le cose degli italiani erano da 100 giorni, da 3 mesi, poi sono 1000 giorni, l'ha dato di 1000 giorni in anticipo di 70 giorni ancora. Questo. Va bene, caro, ciao Francesco, ciao. Non mi molesti, moschito. In collegamento da Washington, se non sbaglio, il professor Edward Luttwak. Professore, buonasera, come sta? Buonasera, grazie. Senta, professore, come vede questa situazione, insomma, in Medio Oriente? Cioè, in sostanza, l'esercito israeliano, quando avanza a Gaza, quando colpisce Gaza, per lei che cos'è? Un esercito di liberazione oppure come dicono alcuni, una sorta di esercito di occupazione, simile addirittura ai nazisti? Qualcuno in Italia addirittura ha commentato così, professor Luttwak. Beh, guarda, Israele continua a fornire elettricità, sì, alla striscia di Gaza, certo, fornisce acqua, sì, fa passare ogni giorno centinaia di camion di viveri, sì, ha fatto passare una spedizione di camion di roba mandata dal governo turco, nonostante che è molto ostile a Israele, sì, ha fatto passare. Quindi gli israeliani si occupano di mantenere la sopravvivenza a Gaza, sì, mentre l'organizzazione che controlla Hamas, sì, che una volta, molto tempo fa, ha vinto un'elezione, dubito che prenderebbero 3 voti oggi, sì, Hamas continua a dedicarsi a lanciare razzi e missili contro Israele. Usa la popolazione, sì, per proteggere i propri missili, mette i suoi razzi e missili, sì, sotto le case. Quindi loro usano la gente per proteggere i missili. Sì. Gli israeliani usano i missili per proteggere la loro popolazione. Questa è la differenza. Scusi, professore, però uno può dire che c'è una risposta rispetto ai razzi che poi alla fine hanno provocato, credo, qualche ferito e basta, forse un morto, adesso non mi ricordo. No, c'è una reazione. Di un enorme sforzo, un fantastico e mai visto prima sforzo tecnologico di protezione. Sì, un sistema d'arma che funziona, sono abbastanza rari, sì, ma la gente che in Italia dice che gli israeliani sono nazisti, sì, io li conosco. Chi c'è sono? Samantha Capistoli di Ravenna, che si è fatta fotografare, sì, e così via. Sì, sì. Questa gente non amano gli arabi, perché se sarebbero pro-arabi, sì, si occuperebbero delle migliaia che sono uccise in Siria, sì, non le 2 o 3, 4, 5 o 150 a Gaza, si occuperebbero di 1500, 15.000, 150.000 siamo arrivati. Per cui lei, per lei 150? Si occuperebbero, sì, dell'Iraq. Sì. No, la ragione che loro sono mobilizzati è perché odiano gli ebrei, sì, odiano Israele, e questa è la loro copertura, perché fanno finta di non sapere, sì, che Hamas ha usato questi anni non per fare scuole, ospedali, far lavorare la gente, li ha usati per importare, armi, fabbricare, produrre, addestrare e mantenere razzi, sì, che lanciano a vanvera. Ben inteso, inutilmente, cioè questa attività bellica degli, sì, arabi è sempre stata inutile. Scusi, professore, ma però per questi... fare questo loro assorbiscono, fanno scoprire la popolazione. Scusi un attimo, diciamo, ma i morti civili non le fanno nessuna impressione, professore? Ma certo. No, guarda, caro, i morti, se tu lanci ogni giorno razzi e missili contro a vanvera, sì, e dall'altro lato gli israeliani fanno mille cose per evitare morti ai civili, mille cose, però, di fronte al fatto che Hamas usa la popolazione per proteggere i missili. Sì. Ora, ripeto, io Hamas lo capisco, è un'organizzazione terrorista, sì, ha pubblicato un suo programma in cui dice che gli ebrei sono figli di cani e di porci e devono essere esterminati. E lo Stato di Israele naturalmente è distrutto, sì, ma in più gli ebrei devono essere esterminati. Io Hamas li capisco, ma non c'è un solo italiano che li appoggia, che io capisco. Non c'è un solo italiano che li appoggia che non è un antisemita feroce. O ma il governo italiano, il governo italiano, o per malinteso, il governo per malinteso o sì, per ferocità, come Samantha Capizzoli. Ma chi è sta Samantha Capizzoli? È una che ha messo delle fotografie di lei sorridente, sì, con tre dita aperte di fronte a un forno. Sì. Un forno, sì, di pizzaiolo, quando è stato annunciato che i tre ragazzi sono morti. Ah, i sì, tre ragazzi israeliani, 16 anni, 18 anni, sì, lei li ha chiamato coloni nazisti sul suo blog, coloni nazisti. Sì. Ok? Ragazzo di 16 anni diventa un colone nazista. Allora, questa gente non amano gli arabi perché sennò si occuperebbero, yeah, sì, dei 150.000 della Siria e non dei 150 di Gaza, ma no, odiano gli ebrei. Ma per cui questi 150, questi 150, c'è una nuova copertura. Sì. Questi 150, lei come li definisce? Effetto collaterale? Cioè, sono vittime del fatto che Hamas usa la popolazione come scudi umani per proteggere la propria razza. E loro lanciano i razzi senza, non è che hanno una strategia per vincere. Sì, no, ho capito. Perché loro sono se tu leggi, loro, guarda, non è un segreto, è online la dichiarazione, sì, di Hamas. La dichiarazione di Hamas dice che il loro meta è di uccidere ebrei. Quindi io ripeto, Hamas li capisco, sono terroristi. Gli italiani che li appoggiano. Sono gli italiani che appoggiano Hamas, non ce n'è uno che non è o un pauroso ignorante o un antisemita come Samantha Capizzoli che celebra la morte di tre ragazzi che lei chiama. E che dovrebbe, che se fosse ammazzata sta Capizzoli che non sarebbe un dramma, dice lei. No. Lei parla di uccidere gente, io non parlo di uccidere gente. Sì. Io parlo di odio e di responsabilità. Non voglio. E che non bisogna fare? Israele dovrebbe catturarla, che dovrebbe fare? No, guarda, no, c'è catturarla. Questa è una persona libera in un paese libero, sì, che esprime opinioni che io considero estreme. Sì. Ma io non sono mai dell'opinione che bisogna strangolare, uccidere. No, perché sono Hamas che uccide gente che non sono d'accordo con loro. Parenzo, che volevi dire? No, voglio dire, saluto il professore, voglio ricordare una straordinaria frase di uno dei più grandi politici, che è stata Golda Meir, che diceva: noi perdoneremo ai palestinesi per aver ucciso i nostri figli, ma non gli perdoneremo mai di averci fatto uccidere. Vabbè. I suoi. Cioè, no, è fondamentale, sì, perché la cultura della vita... loro hanno la cultura della morte, i palestinesi in particolare a Hamas. Senta, però quell'episodio che lei ha ricordato, tre è ragazzi, professor Luca, tre, ma certo che no, certo. E i tre ragazzi israeliani uccisi, i servizi israeliani poi hanno bruciato vivo un adolescente palestinese lì, no, i servizi, no, insomma. Non erano i servizi. No, i servizi. I servizi sono quelli che hanno trovato i tre fanatici, di cui uno, a proposito, è un pazzo che ha cercato di uccidere la propria figlia la settimana prima. I servizi non hanno ucciso e bruciato. No, ma la servizi, volevo dire, estremisti. Vorrebbero bruciare, ne brucierebbero 300.000, non un ragazzino. Sono stati dei fanatici del football, dei estremisti giovanotti. Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco. Samantha Capizzoli che celebra la morte di tre ragazzi che lei chiama coloni nazisti. Allora, Samantha Capizzoli. No, Comizzoli, Samantha Comizzoli. Allora, caro Parenzo, il professor Paolo Barnard, professore, insomma, Paolo Barnard scrive qualche giorno fa: Samantha Comizzoli è un'attivista pro-Palestina di Ravenna, è stata fotografata nei territori occupati mentre celebra il rapimento di tre ragazzi israeliani ebrei da parte di anonimi palestinesi. ha sbagliato, e ancor prima che poi i tre ragazzi fossero ritrovati morti. La resistenza è un mostro genocida, così lo chiama Barnard, un mostro genocida che usa metodi nazisti da 60 anni, di nome sionismo, oggi Israele, e che non si fece premura di offrire alle SS di Hitler aiuti militari durante l'olocausto purché incoraggiassero l'emigrazione ebraica in Palestina. Non si fa rapendo, eccetera, eccetera. Questo è il professor Barnard. Lutwak, questo signore che si chiama Paolo Barnard è ospite spesso in una trasmissione televisiva che si chiama La Gabbia, La Gabbia, e parla di genocidio di israeliani come i nazisti, eccetera, eccetera. Che gli vogliamo dire? Genocidio vuol dire uccisione di un intero popolo. Sì, sì. Si vede che questo professore dovrebbe prima di tutto guardare l'aritmetica. Sì. E tutta la violenza in corso oggi nel Medio Oriente. Sì. In Siria siamo a 150.000. Sì. In Iraq di solo uccisioni giornaliere saranno 150, 200, forse 300 al giorno. E in Israele, Israele risponde ai razzi che vengono da Gaza, sì, con enormi precauzioni, usando il minimo di forza, fanno di tutto per evitare le vittime civili, per contrastare Hamas che si nasconde dietro i civili. Se la gente queste cose non le vede, se non sanno contare, se non sanno misurare e valutare, io non so cosa si può fare. Ma la gente che parla di genocidio è pazza? La gente che parla di genocidio e di pulizia etnica è malata? Semplicemente gente che hanno una nuova maniera di odiare gli ebrei. Odiare gli ebrei è una cosa non nuova. E questo è semplice, quando usano queste parole, fanno queste cose, dicono queste cose, è perché loro odiano gli ebrei. Se loro si amerebbero gli arabi, sì, allora si occuperebbero della Siria. Sì. Dopo che si sono occupati per 1000 anni della Siria, avranno un minuto per occuparsi della storia di Israele. Senta, ma come si fa a finire questa storia? 50.000, sì. Guarda che un rapporto è di 1000 a 1. Se io ti do un rapporto da 1000 a 1, queste sono uccisioni da 150.000 e queste sono uccisioni da 150. 1000 a 1 tra che? Tra i morti arabi in giro per in Siria, che arabi? Solo in Siria sono 150.000 e tutti voluti. L'aviazione siriana scarica barili pieni di esplosivo in mezzo ai centri abitati con lo scopo di uccidere il massimo di persone. Sì. Il gruppo sunnita ISIS vuole uccidere ogni sciita. Più ne uccidono, meglio. Insomma, è. Insomma, lei al fianco di questa campagna dell'esercito israeliano. Parliamo di genocidio, ce n'è il spirito di genocidio dei sciiti di uccidere i sunniti e viceversa. Questo è genocidio, ma non di rispondere ai razzi. Se Hamas può smettere di lanciare razzi, e gli israeliani smettono di bombardare. Parenzo, che dicevi? No, che c'è da aggiungere semplicemente questo. Marco Pannella, il professore, sarà d'accordo con me forse. Oddio, ma chi se ne frega? Diceva, no, ma c'entra su quello con cui stiamo discutendo. Mamma mia. Un palestinese deve avere la fortuna di essere colpito da una pallottola israeliana. Perché? Tutte le volte, te lo sto spiegando, se mi fai parlare te lo spiego. Vabbè, ho capito, parla. È chiaramente un paradosso, ma in realtà non lo è. Perché tutte le volte che il palestinese è colpito invece dalle pallottole siriane, irachene, saudite, non hanno neanche un rigo nella pagina degli esteri. Allora la violenza dei pacifisti sta tutta in questo, perché i primi a essere violenti sono i pacifisti, che usano i poveri palestinesi, qui sì poveri, per le loro bieche ragioni di politica interna, ma mai hanno, quando i siriani uccidono gli arabi, quelle pallottole non hanno lo stesso valore della pallottola israeliana. Secondo, l'intervento di terra israeliano è valoroso, perché è anche molto più pericoloso. Professore, se lei potesse, combatterebbe a fianco di Israele? Io? Se lei potesse. Io sono stato volontario in 2 guerre in Israele. Appunto, se potesse, combatterebbe pure questa guerra?